tue mani prigioniere vogliono i diritti negati, i tuoi occhi guardano un altro mondo, mentre aspetti i giorni della libertà, quella libertà che ti porta lontano, oltre le barriere della solitudine, e scrivi i giorni della tua prigione sulle pareti invecchiate. Il raggio del sole attraversa le sbarre e tu lo accarezzi e lo stringi al cuore e aspetti l'alba del giorno dopo mentre i pensieri travolgono la mente e piangi, piangi, piangi come un bambino. Ti guardi allo specchio nel lago dei ricordi. Sei finito, prendi il coraggio e la forza che hai. Tu non sei finito, prendi il coraggio e la forza che hai. Tu non sei finito. Prendi il coraggio e la forza che hai. Tu non sei finito. Prendi il coraggio e la forza che hai. Quelle strade lasciate sono pagine strappate. Ora scrivi di un ragazzo che vuole sorridere e non ritornare indietro sulle deboli illusioni, perché io t'aspetterò sotto un cielo stellato dove non saremo prigionieri del tempo. La vita continua e rinnova la gioia, rapiti dal bene di un'interminabile luce e riflettiamo il senso della vita, lasciando alle spalle ipocriti pregiudizi destinati a perdersi nel vento. In fondo alla notte non c'è mai la fine, perché nessuno al mondo deve soffrire o di essere mai